La Fondazione Arezzo Wave Italia presenta Domino, da un'idea di Giulio Caperdoni e Daniele Vaschi, condotto da Giulio Caperdoni. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulio Caperdoni, sono pronto a sperimentare il programma radiofonico Domino. Domino, più che un programma, è un gioco, ci avrete sicuramente giocato anche voi qualche volta. A domino si gioca con delle piccole mattonelle, delle tessere, che disposte l'una a fianco all'altra formano un percorso. Appena una cade, facendo cadere la prima, il gioco è fatto. Essendo in radio però, le tessere che vorrei utilizzare sono fatte di musica, pensieri, parole, suoni, colori, e chi più ne ha, più ne metta. Le prenderò dalla mia valigia piena di dischi e dal mio computer connesso alla rete. Ma, come per tutti i giochi, è meglio impararli giocando, no? E allora mettetevi comodi perché sta per cominciare la mia prima partita di domino. Iniziamo con un barbiere, nonché factotum della città. Questo barbiere aiuta il conte di Almaviva a conquistare il cuore della bella Rosina, di cui è innamorato. L'avete riconosciuta? È la storia de Il barbiere di Siviglia, opera lirica di Gioacchino Rossini. Un clamoroso fiasco alla prima, che ebbe luogo il 20 febbraio 1816 al Teatro Argentina, a Roma, e terminò tra i fischi. A provocarli, secondo i pettegolezzi dell'epoca, sarebbero stati gli impresari di un teatro concorrente, il Teatro Valle. Secondo altri, la colpa fu di alcuni seguaci di Giovanni Paisiello, che aveva messo in scena il suo Barbiere di Siviglia nel 1782. Il solo annuncio che Rossini stava preparando una nuova versione del Barbiere di Siviglia aveva suscitato non poche polemiche. Il fiasco della prima fu però riscattato immediatamente dal successo delle repliche e l'opera di Rossini finì presto per oscurare la precedente versione di Paisiello. All'inizio del primo atto, subito dopo l'introduzione, c'è la cavatina largo al factotum della città, popolarissima ancora oggi. Eccolo qui! lava rasoio, dic, si deve usar. Quando mi sveglio al mattino che c'ho oia, che rasatura dolce perfetta, che bel piacere, lama rasoio di qualità, ah che bel radere, bravo bravissimo, ah che bel radere, bravo bravissimo, sei perfettissimo, sei perfettissimo, sei perfettissimo, sei bravo Bicchi, e lama rasoio Bicchi. Correva l'anno 1981. Un indimenticato Franco Franchi si esibiva in una particolare versione dell'opera di Rossini, ribattezzata per l'occasione Il Barbiere di Sicilia, per pubblicizzare Lama Rasoio Bic. Il suo tipico con il gomito che va verso fuori. Con la faccia tutta piena di schiuma cantava sull'aria del Barbiere di Siviglia, tipo che rasatura, dolce perfetta, che bel piacere, Lama Rasoio di qualità. Di qualità. Di qualità, di qualità. L'anno dopo, nel 1982, si parla ancora di lamette, ma il contesto è completamente diverso. Dammi una lamette che mi taglio le vene. Seppure in maniera ironica, si parla di suicidio al ritmo scatenato di un pezzo pop rock. Che mi taglio le vene. Dammi una lametta che ti taglio le vene. Ti faccio meno male del trapianto del rene. Ti voglio bene, sì, ti voglio tanto bene. Ma che mi schioppo le vene. Parlo già da sola e disegno nell'aria. Certo, ho un po' peccato, ma che godoria. Mi gioco tutto con candore e furia. E allora stop! Senti com'è fetta questa lametta, da destra verso il centro, zap. Dall'alto verso il basso, zit. Che gusto, che nesto, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Allora stop. Senti come taglia questa canaglia, ma che puntiglia. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Allora stop. Vivere in fretta, prendere al volo, tutto conviene. Dammi, dammi, dammi, dammi, dammi una lametta che mi taglio le vene. Mi faccio meno male del trapianto del rene. Mi voglio bene, sì, mi voglio tanto bene. Che mi sgarro le vene. Kamikaze Rock and Roll Suicide è il sesto album della cantante pop rock veneta Donatella Rettore, l'ultimo da lei pubblicato nel 1982 per la piccola etichetta Ariston. Lamette è la prima canzone del lato B, quando i dischi avevano ancora due lati. È un concept album, i cui temi prendono spunto dalla filosofia giapponese, di cui viene rielaborata l'idea del suicidio, in particolare per onore, tipico quello dei famosi kamikaze nipponici che nella Seconda Guerra Mondiale si lanciavano con i propri aerei contro il nemico, con l'unico obiettivo di uccidere, non curanti di perdere nell'impatto anche la propria vita. La copertina raffigura Rettore seduta su alcuni pneumatici davanti ad un aereo, con le tipiche eliche in primo piano. mentre sullo sfondo, in un cielo dai colori inquietanti tra giallognolo e verdastro, è chiaramente visibile l'esplosione di un kamikaze, tra fumo e rottami, accanto ai quali, sopra uno squarcio di luce, altri aerei continuano a volare indifferenti. 7 dicembre 1941, una data che vivrà nell'infamia. Con questa frase entrò nella storia il giorno seguente, l'8 dicembre 1941, il messaggio di Franklin Delano Roosevelt al Congresso e alla Nazione dopo l'attacco di Pearl Harbor. A seguito di questo discorso, gli Stati Uniti entrarono nella Seconda Guerra Mondiale a fianco degli alleati. Roosevelt fu il primo presidente a rivolgersi regolarmente al pubblico americano attraverso la radio. Istituì la tradizione di discorsi settimanali alla radio, che chiamò le chiacchierate al caminetto, Fireside Chats. Queste chiacchierate gli diedero l'opportunità di portare le sue opinioni agli americani e spesso aiutarono ad affermare la sua popolarità mentre egli era impegnato a realizzare diversi cambiamenti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, le chiacchierate al caminetto furono viste come importanti energizzanti per il morale degli americani nelle loro abitazioni. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Japanese air squadrons had commenced bombing in the American island of Oahu, that it seemed useless to continue the existing diplomatic negotiations. It contained no threat or hint of war or of armed attack. It will be recorded that the distance of Hawaii from Japan makes it obvious that the attack was deliberately planned many days or even weeks ago. Yesterday, the Japanese government also launched an attack against Malaya. Last night, Japanese forces attacked Hong Kong. Last night, Japanese forces attacked Guam. Last night, Japanese forces attacked the Philippine Islands. Last night, the Japanese attacked Wake Island. And this morning, the Japanese attacked Midway Island. Japan has therefore undertaken a surprise offensive extending throughout the Pacific area. The facts of yesterday and today speak for themselves. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Sei giorni dopo l'attacco di Pearl Harbor, la California è preda dell'isteria perché teme di essere la prossima vittima dei giapponesi. Uno sgangherato gruppo di militari e civili si organizzano per difendere la costa sud-occidentale degli Stati Uniti ed incrociano un sottomarino nipponico diretto su Hollywood. Così inizia 1941, Allarme a Hollywood, prima commedia nella filmografia di Steven Spielberg. La sceneggiatura è a opera di Robert Zemeckis e Bob Gale, creatori della saga di Ritorno al Futuro e di Roger Rabbit, lanciati proprio da Spielberg con questa pellicola, mentre sul set si incrociano per la prima volta Dan Aykroyd e John Belushi, un anno prima di The Blues Brothers. C'è un aneddoto legato al personaggio del folle pilota Wild Bill Kelso. Nella sceneggiatura originale quel ruolo era molto marginale, ma quando venne scelto John Belushi per la parte, esso venne allora enormemente ampliato. Ma che diavolo è quello? Si presenta come un aereo, signore.

alla aspettativa e alla curiosità straordinaria intorno al suo secondo romanzo, come se si volesse verificare se il precedente successo fosse stato un caso o se il nuovo libro confermasse la grandezza dell'autore. Giovanissimo si era imposto all'attenzione con un primo romanzo di una originalità geniale, Ogni cosa illuminata, da cui era stato tratto anche l'omonimo film. Coprotagonista di Ogni cosa illuminata è Eugene Hatz, che interpreta la parte di Alex Pechov, un ragazzo di Odessa, Ucraina, che aiuta un americano, Elijah Wood, Frodo, nel Signore degli Anelli, a ritrovare le radici della sua famiglia e nel frattempo scopre un po' delle sue. Eugene è il leader della formazione Gogol Bordello, di base a New York, con la maggior parte dei componenti immigrata dall'Europa orientale. La loro canzone, Start Wearing Purple, è sui titoli di coda del film, come anche sui titoli di coda del domino di quest'oggi. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time, so yeah. Start wearing purple, wearing purple. Since you were a 20, I was 20 and thought that some years from now a purple little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah, from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Passepartout. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в му. Start wearing purple, wearing purple. На-на-на-на. Start wearing purple for me now. Hold your sanity. You start wearing purple. Why don't you start wearing purple? Start wearing purple for me now. La Fondazione Arezzo Wave Italia ha presentato Domino, da un'idea di Giulio Caperdoni e Daniele Vaschi, condotto da Giulio Caperdoni.